Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera iniziamo parlando di fabbriche. Parliamo di fabbriche sulla base del libro Fabbriche globali, un confronto tra Torino e Detroit. L'autore è Andrea Signoretti. Buonasera, Signoretti. Buonasera a lei, dottor Fabi, grazie. Ecco, Andrea Signoretti, dottore di ricerca in sociologia economica, autore di diversi saggi su temi industriali ed economici, ha scritto questo libro partendo da un'esperienza diretta, cioè un'analisi fatta sul campo del gruppo Fiat, delle fabbriche tra Torino e Detroit. È così, Signoretti? Sì, diciamo che l'obiettivo nell'ambito del dottorato di ricerca in sociologia economica è stato proprio quello di mettere a confronto due fabbriche, in questo caso della fornitura di primo livello, sui temi dell'organizzazione del lavoro, delle relazioni industriali, che si inserisce poi in quello che è il dibattito relativo anche alla ristrutturazione di Fiat. Certo. E diciamo che il valore aggiunto, insomma, se così possiamo dire, del libro è il fatto che sono stato per 3 mesi all'interno di ciascuna delle due fabbriche, quindi con l'opportunità di raccogliere informazioni, dati empirici, parlare con manager, rappresentanti sindacali e numerosi lavoratori, e diciamo così andare un po' oltre quelli che sono i contratti collettivi di lavoro, certo, che sono ufficiali, fondamentali, ma andando poi a verificare quella che è la vita, no? Certo, nelle fabbriche. Quindi andiamo subito al cuore: quali sono le differenze principali tra la realtà del lavoro in una fabbrica italiana e la realtà del lavoro in una fabbrica americana? Guardi, allora, la prima differenza che mi ha colpito, io ho fatto prima la ricerca a Torino e poi a Detroit, è stato il fatto che entrando nella fabbrica di Detroit ho trovato metà personale femminile, sostanzialmente. Ecco, parliamo dello stesso tipo di produzione, quindi insomma la catena di montaggio è sostanzialmente la stessa, no? Però mentre a Torino sono quasi esclusivamente uomini, nella fabbrica americana, diciamo così, ci sono metà donne e metà uomini. Questo è frutto di certo, leggi antidiscriminazione che sono molto forti negli Stati Uniti e che obbligano sostanzialmente l'impresa ad assumere personale femminile, e questo implica anche un maggior livello di contenuto tecnologico, indubbiamente. Ecco, all'apparenza si ha l'idea che la fabbrica americana sia più flessibile che della fabbrica italiana, è così? Assolutamente sì, nel senso che gli straordinari sostanzialmente sono illimitati e quindi gli operai lavoravano anche 11 ore al giorno nella catena di montaggio e vengono comunicati in tempo reale, ovvero tutte e due le fabbriche si muovono secondo i principi della Lean Production, ormai utilizzati un po' nell'automotive e non solo, no? E da questo punto di vista appunto ci si basa sul just in time, e quindi si comunica ai lavoratori in tempo reale se si dovranno fermare oppure no. Ecco, andiamo su un punto caldo: il sindacato. Allora, ok, sì, diciamo che il discorso ovviamente è molto complesso. Quello che possiamo dire è che negli Stati Uniti i rapporti sono inizialmente molto difficili, cioè le aziende americane tendono a non volere il sindacato all'interno per diversi motivi di costo del lavoro, di assicurazione sanitaria. Una volta che poi è all'interno, parliamo dell'UAW in questo caso, il sindacato si dimostra molto collaborativo, direi concessivo sostanzialmente. Ma guardando un po' la realtà del gruppo Fiat, si può dire che le fabbriche italiane abbiano copiato un modello o cercato di copiare un modello americano, o che nelle fabbriche americane stia avanzando un po' un modello italiano, oppure è fuori luogo parlare di modelli in questa prospettiva? Non parlerei di modelli che uno, diciamo così, tende ad inglobare l'altro. Direi che quello che si è fatto nel contratto Fiat è, si è cercato, diciamo così, da un punto di vista di flessibilità quantitativa, orario di lavoro eccetera, di rendere più flessibile la fabbrica e quindi gli orari di lavoro e la produzione. Questo sicuramente sì, nel senso che comunque il contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici, che veniva e viene tuttora applicato insomma nella fornitura di primo livello almeno per il momento, implica una certa rigidità, ecco, nei rapporti, che fa fatica a tenere il passo con quelle che sono le esigenze di produzione oggigiorno, che sono molto volatili sostanzialmente. Certo. Il mercato è caratterizzato da grandi incertezze, quindi c'è bisogno di una maggiore flessibilità, che però non si spinge a quello che è stato nella fabbrica in cui sono stato io, però mi hanno detto rappresentativo di quello che è il contesto americano, fino al livello di avere proprio straordinari illimitati, ben retribuiti. Però e comunicati in tempo reale, che ovviamente, certo, come si può ben intuire, causa problemi di non poco conto nell'organizzazione di vita delle persone, soprattutto quando hanno famiglia. Ecco, lei parla in un capitolo, uno degli ultimi capitoli del suo libro, di astuzie operaie. A cosa si riferisce? Sì, le astuzie operaie sono sostanzialmente il fatto che, ovviamente insomma, la sociologia industriale lo ha ben descritto, no, nei decenni passati, il fatto che gli operai tendano comunque a conservare un certo grado di autonomia e di discrezione nell'esecuzione del lavoro, e questo sostanzialmente può provocare dei problemi di qualità. Nell'ambito della lean production, con la partecipazione dei lavoratori, questo dovrebbe essere eliminato, nel senso che i manager assieme agli operai andrebbero a determinare il modo migliore per eseguire il lavoro, e quindi gli operai non avrebbero più alcun bisogno, no, di comportarsi in modo diverso, certo, da quanto prescritto. Ecco, da questo punto di vista, in entrambi i casi direi che, insomma, pur parlando di buone relazioni di lavoro, c'è ancora molta strada da fare, nonostante poi, insomma, nel libro le pratiche di partecipazione attuate viene descritto bene come abbiano portato risultati molto positivi. E se lo dice l'autore possiamo crederci, ma sicuramente in questo libro ci sono molte interessanti annotazioni sulla realtà delle fabbriche, una realtà forse che è poco conosciuta, merita di essere conosciuta, una realtà che è molto simile, anche se con differenze significative, tra Italia e Stati Uniti. Grazie e complimenti ad Andrea Signoretti. Vi ricordo il libro Fabbriche globali, un confronto tra Torino e Detroit, edito dal Mulino, sono 256 pagine per 21 euro. E dopo aver parlato di fabbriche globali, parliamo di esseri umani, come è giusto. Essere umani nell'era tecnologica è il titolo di questo libro di Luca De Biase, Homo Pluralis. Luca De Biase è ormai un ospite fisso del nostro programma, una grande produzione letteraria, è responsabile del supplemento Nova 24 del Sole 24 Ore, uno dei maggiori esperti della società dell'informazione, della società del futuro, possiamo dire. Questo libro guarda il futuro, Luca De Biase. Guarda come viene fuori il futuro, non è previsione, è un ragionamento e un insieme di fatti su come lo costruiamo questo futuro. È una narrazione, come si dice adesso. Sì, è una mette in luce il fatto che la nostra narrazione, il nostro modo di raccontarci influisce su quello che facciamo e che dunque costruisce il futuro. Ecco, e questo libro mi sembra che abbia l'ambizione di dire che in questa società ipertecnologica, iperconnessa, in cui gli strumenti rischiano di avere il sopravvento, poi alla fine giustamente avrà il sopravvento la persona. Sì, questo se vuoi è la preoccupazione, no? Questi strumenti, questa intelligenza artificiale, queste macchine che si guidano da sole fanno pensare a un mondo nel quale l'umano viene messo da parte e le macchine decidono per i fatti loro. Il libro comincia con la cooptazione in un consiglio di amministrazione di un algoritmo come consigliere di amministrazione, perché effettivamente nella finanza si ci capisce di più degli altri, si informa e impara parecchio un algoritmo. Forse è una provocazione, forse è una realtà, ma questi qui sono gente seria, una compagnia di venture capital e ha pensato di avvalersi tra i suoi consigli di amministrazione della macchina. Però qui è chiaro che non è finita la storia, certo, non può finire così, o perlomeno dipende da come ci raccontiamo la storia per sapere come va a finire. Ecco, è significativo il titolo Homo Pluralis, vuol dire la pluralità delle persone e non la collettività, non una massa informe, ma una realtà in cui, grazie anche alla connessione, ogni persona può conquistarsi e difendere e valorizzare la propria identità. Hai ragione Gianfranco, perché fondamentalmente siamo tante cose, non siamo persone a una dimensione, non siamo i nostri like, non siamo soltanto le connessioni che abbiamo su una piattaforma, anche se queste cose stanno assorbendo sempre più del nostro tempo. Siamo plurali, abbiamo tante dimensioni e questo tipo di pluralità possiamo fare in modo che conti anche nel modo con il quale costruiamo le macchine e le piattaforme con le quali comunichiamo. Ecco, ma come evitare, com'è possibile evitare che qualcuno strumentalizzi questa collettività e riesca a bloccare il fatto di essere plurali all'interno della società? Beh, la strumentalizzazione c'è, è provata, se ne raccontano vari episodi anche piuttosto inquietanti. Il primo passo è che noi si sappia che cosa succede e come funzionano queste piattaforme e in che modo ci possono manipolare. Se lo sappiamo, la conseguenza è che prenderemo delle decisioni costruttive. Per esempio, alcuni di noi costruiranno delle piattaforme che abbiano la capacità di dar conto della pluralità delle dimensioni, altri saranno semplicemente attenti a come utilizzano queste cose. Ecco, molto spesso la cultura della rete, la cultura di internet ci porta su strade che rischiano di essere ambigue. Quando sentiamo dire qualcuno ma deciderà la rete, forse è qualcosa che sa molto di truffa. Sì, è una manipolazione perché la rete non è niente altro che noi stessi. Ecco, forse manipolazione è un termine più giusto che truffa. Dà l'idea di qualcuno che però opera all'interno della società. Quindi come ridiventare padroni della rete? Quali sono i consigli utili che questo libro offre a chi è comunque, e tutti noi siamo comunque più o meno all'interno della rete, la usiamo, la utilizziamo, ci facciamo condizionare? Ma il pensare ecologicamente, ci sono tante cose, c'è una dieta mediatica da avere, c'è un approccio attento al significato di quello che facciamo. Possiamo imparare dalla storia dell'ecologia che il gesto di ciascuno influisce sulla qualità dell'insieme e la qualità dell'insieme influisce sul nostro individuale benessere. Questo vale anche nell'infosfera, vale anche nel mondo di internet. Ecco, dobbiamo pensare che i mezzi come Facebook, come Google, non sono mezzi oggettivi al massimo, che rispondono a tutte le nostre sollecitazioni, ma sono degli strumenti che hanno al loro interno anche dei modi di deviare l'interesse, di deviare l'attenzione delle persone, di deviare anche gli stessi risultati che abbiamo usando questi mezzi. Alfabetizzarci alla rete non significa soltanto imparare a schiacciare dei bottoni, significa imparare a conoscere i meccanismi delle piattaforme. E le piattaforme sono fatte di algoritmi, di interfacce, di metafore che influiscono sul nostro comportamento. Questo lo dobbiamo sapere. È una necessità per la qualità della nostra vita, per la qualità delle comunicazioni, per la qualità della cultura. E sicuramente per la qualità del futuro che costruiremo. Possiamo considerare questo libro Homo Pluralis delle istruzioni per l'uso, il manuale per vivere meglio all'interno della rete. Sì, ma sono istruzioni che ciascuno scrive per sé e per gli altri. Quindi cominciamo a scriverle con questo libro, fate comprare questo libro. Grazie a Luca De Biase, grazie, che è stato con noi questa sera. Abbiamo parlato con lui del libro Homo Pluralis, essere umani nell'era tecnologica, codice edizioni 220 pagine per 12 euro. Nella prima parte di questo programma abbiamo parlato con Andrea Signoretti del suo libro Fabbriche Globali, un confronto tra Torino e Detroit, edito dal Mulino, 256 pagine per 21 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per sabato prossimo.